Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Perché le città intelligenti possano dispiegare interamente il proprio potenziale, è evidente, devono essere anche abitate da utenti intelligenti. Non che gli altri fossero stupidi, ma cioè utenti in grado di utilizzare tutte quelle tecnologie, per esempio multimediali, con cui oggettivamente hanno molta più familiarità le nuove generazioni di quelle precedenti. E allora, per sperimentare i nuovi servizi che la Smart City metterà a disposizione dei propri abitanti, dei propri cittadini, forse non c'è davvero posto migliore di un campus universitario. E allora oggi vi parliamo di un progetto che si chiama Smart Campus, un'iniziativa della Fondazione Bruno Kessler, che è una fondazione basata a Trento e che si occupa di innovazione tecnologica, e un progetto che però rientra anche nelle attività di Trento Rise, un grosso questa volta progetto dell'Università di Trento, del quale ora si sente parlare ancora poco, ma che certamente acquisterà una certa notorietà in futuro perché ha una dimensione rilevante, intanto sovranazionale, ed ha una dimensione significativa anche in termini di investimento e di strategia. Federico Pedrocchi ha parlato di questo progetto Smart Campus con Marco Pistore della Fondazione Bruno Kessler. Sentiamo com'è andata. Ci sono ormai molte università che effettivamente hanno incominciato a mettere in linea dei siti di servizio per i propri studenti, per i propri docenti. C'è un esperimento interessante, per esempio, che sta facendo il Politecnico di Milano e che si rivolgono alla comunità, appunto, di chi utilizza un campus. La stessa cosa si sta facendo a Trento, qui con me c'è Marco Pistore, buonasera Pistore. Buonasera. Anche voi avete incominciato a fare un'operazione di questo genere sul popolo degli studenti dell'Università di Trento, però avete detto ma questi studenti sono anche cittadini di questa città e questo è qualcosa che sta cambiando, no? La prospettiva. Sì, assolutamente. In realtà non siamo stati noi a dirlo, ma sono stati gli studenti. Quando gli abbiamo chiesto quali sono i servizi che volevano per rendere la loro vita più facile, per rendere il campus più attrattivo, ci hanno parlato di servizi che non sono nelle aule o nell'università, ma sono proprio nella città. Gli studenti hanno problemi relativi ai trasporti, relativi a dove vivono, relativi alla vita sociale che fanno, anche a problemi di inclusione se sono studenti che vengono da fuori Trento, da fuori Italia. E quindi ci siamo resi conto che offrire servizi agli studenti vuol dire in realtà offrire servizi della città, non solo dell'università. E quindi gli studenti possono essere un buon primo campione di cittadini della Smart City. E voi lo chiamate Smart Campus. Giustamente lei diceva abbiamo aperto, per capire come fare questa piattaforma, abbiamo aperto le finestre, le porte alle domande, alle richieste degli studenti, e vi è venuta fuori di più una domanda da cittadino che da studente. Ma certamente, ma io penso che questo sia una situazione del tutto generale. Mentre la pubblica amministrazione magari ragiona ancora settorialmente, il cittadino quando ha un problema vuole il problema risolto e vuole che tutta la pubblica amministrazione si impegni a risolvere il problema. Mi pare che ci sia un dato importante che è il seguente: a Trento c'è una presenza di studenti stranieri molto elevata. Con questa piattaforma che è in grado di servirli come cittadini, probabilmente si agevola anche fortemente l'arrivo di studenti stranieri, che sappiamo essere un problema delle nostre università. Sicuramente lo studente straniero che arriva a Trento si scontra ancora in maniera dolorosa, speriamo di aiutarli in questo senso, con le idiosincrasie dell'amministrazione pubblica italiana per problemi di visto, per problemi legati alla pubblica amministrazione. Quindi sicuramente offrire dei servizi che appunto, oltre a risolvere i problemi in ambito universitario, gli risolvano i problemi come cittadini, è un aiuto a rendere il campus e la città molto più appetibile per gli studenti stranieri. Per esempio, io so a Lecce, non tanto per via telematica, sì c'è un sito, ma delle associazioni studentesche hanno messo in atto un monitoraggio abbastanza preciso sui prezzi fatti agli studenti non di Lecce per le camere in affitto, scoprendo appunto che insomma c'è chi ci gioca sopra un po' in modo pesante, non parliamo per uno studente che arriva dall'India o dalla Cina. Sì, questo è un tema molto interessante. In realtà dove non arriva l'università, dove non arriva la macchina della pubblica amministrazione, molto spesso si impegna il cittadino in prima persona. Noi speriamo con Smart Campus in realtà di andare a mescolare questi due approcci, cioè di fare in modo che dei servizi, dei dati ufficiali erogati dalla pubblica amministrazione, dall'università nel nostro caso, si mescolino con dei dati forniti dagli utenti. Insomma, vogliamo andare un po' a contaminare questi due ambiti che adesso molto spesso sono ancora separati. Smart Campus è già operativo da quanto? Smart Campus è partito il 1 gennaio di quest'anno, è già operativo, nel senso che abbiamo già i primi servizi legati per esempio al problema della mobilità, al problema di scoprire Trento come città, ma anche problemi legati alla socializzazione e a prepararsi un curriculum, un percorso di studi in maniera flessibile. Questi servizi sono già disponibili e sono già utilizzati da un primo gruppo di 100 studenti che abbiamo portato nella sperimentazione perché ci dicano la loro. La sfida che ci aspetta subito dopo è di coinvolgere gli studenti non solo nel capire i bisogni e nel valutare i servizi, ma anche nel pezzo in mezzo, anche nello sviluppare i servizi, un po' con il modello degli smartphone in cui chiunque può sviluppare un'applicazione. Queste però non sono applicazioni globali che si troveranno poi sull'Apple Store, ma sono applicazioni locali, specificatamente sviluppate, speriamo, dagli studenti per gli studenti. E questo è un po' il motto del nostro progetto, è creare servizi per e con le persone. Quindi un primo progetto prototipale che sta lavorando su 100, lo mettete a punto bene e poi dopo si aprirà alla popolazione intera. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie. Bene, anche per oggi abbiamo concluso, abbiamo qualche secondo, per cui vi ricordo la mail smartcity@radio24.it, vi ricordo che potete scaricare dal podcast, dal sito di Radio 24, le puntate che vi interessa ascoltare, che magari vi siete persi. Io vi saluto, buona serata, appuntamento a domani.